sei entrato dentro il sogno di un vecchio addormentato e hai visto nel suo cuore un'immagine sbiadita, due pianeti in armonia in fondo all'universo, dietro polveri dorate e boschi di corallo. Tutto è velato ormai da nebbie sottili, c'è solo eternità in quello che vedi. La mia voce non ha ali in cielo, i miei piedi non hanno radici in terra, perché sono solo un riflesso, la magia di uno specchio, un riflesso di te. Sei entrato in quel sogno senza far rumore, ripiegando le tue ali, colpevoli di amare, e hai trovato l'innocenza di un bimbo appena nato che sorride il suo futuro sulle orme del passato. L'aurora dei tuoi occhi inebria la mia notte in questa terra antica, mi sono anch'io perduto. La mia voce non ha ali in cielo, i miei piedi non hanno radici in terra, perché dimenticare quei luoghi senza tempo, dove gioia e dolore si rincorrono nel vento. E se il cielo ascolterà il mio desiderio, le foglie color miele saranno il mio sudario.